Buonasera carissimi amici di Runtime Radio, come al solito queste sono le ore, quelle semi-notturne, quando parte questa musichetta jazz e noi tutti ci riempiamo di gioia e veniamo a voi, perché questa sera voi vi pensate che stiamo facendo OGM, quella brutta trasmissione con quel nome così poco gradito al nostro Signore e Dio. In realtà invece questa sera noi facciamo una cosa per voi, perché siccome siete tanto stronzi da andare in giro a fare le messe, li mortacci vostri, la facciamo noi la messa, giusto? Il mio chirichetto di destra, Walter Sbano. Walter Sbano? Hai detto una cosa bruttissima. Che ho detto? Ho detto no, ne ha dette due cose bruttissime. Sì, in realtà due, una è peggio dell'altra, infatti, cioè, non lo so, allora, che mio, altro potevi aggiungere? Il mio aiutante di lato, Walter Sbano. Buonasera, bentrovati a questa puntata solenne di OGM, durante Vincenzo, la quale diremo messa. Vincenzo De Luca. Devi De Luca. Smuovere l'incenso. Muovere Devo l'incenso. Smuovere l'incensiera, c'è ragione. L'altro che ci aiuta, che è dall'altro lato, del lato opposto di Walter Sbano, c'è Marco Gualdi. A ben 2 metri di distanza eterei è attaccato al muro, perché essendo chirichetto è meglio mettersi da parte in questa partita notturna, dove vediamo appunto che le squadre stanno entrando in campo, però stando a casa. E il negozio mini market è chiuso, però il vicino ha terminato la tinteggiatura della parete. Che no, adesso non, è di un questo bel non, rosa, non lo puoi dire scuro. Con certezza, perché in realtà è notte, quindi non. No, ma dovrà fare almeno 3 maglie, se no come gli passa. Ci sono i riflettori accesi, e quindi perché la moglie sta stendendo i panni, per cui si può vedere che il lavoro è stato terminato, non sappiamo se è regola d'arte. Allora, oppure... scusa, allora aspetta, Gualdi, no. dice alla signora che i panni li stendiamo noi, perché adesso li moltiplichiamo insieme ai pesci. Con i pesci, esatto. Ecco. Panni. No. Sono i panni. Walter, sta stendendo i panni. Luca Walter, chi è l'amico tuo? Luca Walter? Vabbè, ma Walter. No, vabbè, ho capito io Luca Walter, pensavo che basta che non è Luca Ward, vabbè, però vabbè. Perché per prendere la cosa quasi sul serio, diciamo che voi sapete che lo diciamo sempre, Runtime ogni giorno garantisce almeno una diretta. Questa è la seconda diretta. E la seconda diretta che faccio io, quindi un po' stanco. Un po', diciamo, come posso dire, sottopelo, come dice, non so che cosa significhi, però che ti importa. Vabbè, ma insomma, senti, fammi salutare i numerosissimi ascoltatori già collegati in chat questa sera, Lobby Frontali e Carmine Puccio Consol, detto anche il nostro mandaloriano di fiducia, visto l'avatar, e niente, poi oggi credo che i pavidi che si celano dietro la chat senza palesarsi credo siano 7 milioni e mezzo, 8, il problema sai qual è? Che ci abbiamo come al solito quell'antipaticone di Conte che ci viene a rompere le scatole quando noi dobbiamo fare la diretta. Ha parlato poco fa, anzi in realtà ha cominciato una sorta di conferenza stampa, cioè una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, in cui hanno parlato credo anche altri esponenti dell'esecutivo, e parrebbe, poi magari dopo cerchiamo di approfondire, lo dobbiamo fare un attimo, come dire, in diretta con gli ascoltatori, perché non ho, io personalmente non è, stavo preparandomi la cena, non ho seguito, però insomma pare che abbia tirato fuori i gabbasisi Conte, abbia annunciato una potenza di fuoco, l'ha definita così, per mettere a disposizione delle imprese 400 miliardi in prestiti, qualche cosa che adesso Salvini dovrà dire almeno 500 domani, perché sennò come fa? No, allora diciamo che i soldi stanziati al governo sono sempre gli stessi. La cosa positiva, tra virgolette, ma da domani inizieremo a fare delle verifiche dirette, anche perché sono cose che comunque ci interessano a noi, diciamo che il governo si pone come garante al 100%, quindi attenzione, quindi si mette proprio come garante al 100% per finanziamenti fino a 800.000 euro, e la stessa garanzia al 100% per finanziamenti fino a 25.000 euro senza istruttoria, cioè nel senso che tu vai lì, la banca te deve dai soldi, cioè non, secondo il decreto non ci sono né cazzi né lazzi. Va sicuro che tanto domani lo verifichiamo questo, cioè nel senso, e poi ne torneremo a parlare di questa questione. Sicuro. Lo farò in modo di scoprirlo anche io. Ma sì, credo che ci informeremo. Allora, qui ovviamente i nostri ascoltatori più fedeli lo sanno più o meno, ciao, in un modo o in un altro. Sì, ciao Piergi, siamo tutti più o meno, diciamo, dei professionisti, dei liberi professionisti, delle partite IVA, non so come ci vogliamo definire, però chiaramente siamo tutti quanti, chi più e chi meno, colpiti direttamente da questo che è il blocco totale delle attività che stiamo vivendo, al punto che alcuni di noi, per esempio io, mi sto domandando cosa succederà, non oggi, non domani, perché adesso ancora, come dire, abbiamo, perlomeno io ho a disposizione, gli ultimi residuali di lavoro procacciato a gennaio e febbraio. La vera domanda sarà quando ripartiremo e si faranno sentire quei due mesi circa durante i quali, stando a casa, non ho procacciato nuovi clienti, nuovi contratti, e quindi insomma sarà lì che bisognerà fare i conti. Però stavo facendo una precisazione, però, cioè nel senso, non è che sono fondo perduto questi soldi. No, cioè, no, ma restituiti, è chiaro. Il decreto, certo, impone alle banche di fornire questi finanziamenti, che sono finanziamenti, quindi, cioè, nel senso, poi, cioè, nel senso, se questi li rivuono in 12 mesi, sono cazzo. C'è anche un tasso su Raio, oppure. In realtà si parlava di, se non ho capito bene, nessuna spesa istruttoria e forse addirittura anche a tasso zero o comunque a tassi minimi, però non vorrei sbagliare, non l'ho letto. Infatti l'approfondiremo nei prossimi due o tre giorni e poi magari nel prossimo episodio di OGM torneremo a parlare di questa cosa, perché ha comunque una sua importanza strategica, no? Nel senso, però comunque, aspettiamo che sedimenti la cosa, perché ovviamente adesso hanno fatto i proclami, poi bisognerà vedere se il documento reale è stato già scritto o se deve essere ancora scritto. Non sarebbe la prima volta che il governo annuncia una cosa che ancora non è uscita dallo stato di bozza, quindi vediamo un attimino, lo capiremo nei prossimi giorni. Ecco, il consiglio potrebbe però parlando essere, con il tizio, non andate in banca domani, andateci dopo domani, ecco, insomma, dategli un attimo di tempo. Sì, no, però parlando col tizio con cui noi abbiamo il nostro referente bancario, sta cosa era comunque già in lavoro, cioè evidentemente, cioè le banche già erano state preallertate riguardo a questa cosa, probabilmente io credo che in questo momento la situazione sia tale per cui l'unico modo per ripartire dopo questo blocco di mesi sarà, per forza di cose, elargire, iniettare denaro, per forza, sì. Insomma. Se non tanto per ripartire, che sicuramente per ripartire, ma anche per coprire quello che è il danno, il cratere che si è creato. Comunque, in realtà, noi, fortunatamente, io parlo della nostra esperienza, a noi, cioè nel senso, l'avremmo dovuto comunque chiedere quel prestito per fare delle operazioni. In realtà a noi sì, ci serve proprio per fare un'operazione di ripartenza, perché a noi il danno c'è stato, sensibile, importante, ma sicuramente molto meno di chi ha proprio chiuso completamente, cioè nel senso, metti i ristoranti o cose del genere, che penso insomma è veramente. Sì, ci sono tante categorie commerciali che quel fatturato perso non lo possono recuperare, perché non è che ripartendo lavori al 200% per tre mesi e quindi compensi i tre mesi che non hai lavorato. Questa tipo, cosa è tipo Gualdi, no, per esempio, no? Gualdi, no, tu, io sono sulla via dell'essere spacciato, ragazzi, quindi cioè, voi considerate che quando riapriremo, se riapriremo questo mese, ma io non lo so, ci credo poco, voi vi immaginate la gente che viene a vedere le case degli altri? Cioè, allora, permettetemi, guarda, di ricordare su questo, questa cosa non si sa, perché poi in realtà è proprio il momento in cui escono fuori quelli che possono permettersi di fare l'affare, capito? Fatemi ricordare che Gualdi fa una cosa specifica nella vita, perché Gualdi vende a metà dei monterotondesi l'altra metà delle case di Monterotondo e viceversa, ricordiamo. devi capire che devi entrare dentro le case per vederle, mo, fino a che sono vuote pure, ma la gran parte delle case a volte sono piene, ci stanno i proprietari che magari non te fanno entrare loro, o magari non vengono a vedertelo perché ci stanno i proprietari dentro, quindi per evitare proprio di contaminamenti. Ma certo, questo io lo capisco, però a quel punto il genio porta alla diversificazione imprenditoriale, no? Cioè, tiene presente pure questa cosa, che adesso praticamente è aprile, prima di maggio e giugno, diciamo, rimettersi in moto non se ne parla, la gente penserà direttamente a settembre di fare le cose, cioè la mia stagione è chiusa. Quindi io da qui a settembre, ottobre, praticamente ho in vacanza. Sì, in vacanza con una cosa di circa 6.000 euro al mese che dovrò pagare così a buffo, perché ovviamente queste sono le spese minime che ci abbiamo. E poi uno paradossalmente potrebbe fare la battuta e dire: guardi, vende dalla casa, ma stai da capo a 12. Vabbè, non ci pensa, guardi, in qualche maniera faremo. Non faremo una colletta e ti aiuteremo. Noi saremo sempre a carcere. Sempre carcere. Poi faremo anche sì una campagna crowdfunding. Carcere Q a Bar. Ground funding, esatto. Comunque, no, ragazzi, questa cosa, insomma, che verificheremo. Allora, quello che ci ha stupito a me e Michela in particolare. Perché poi tra l'altro una cosa l'hanno fatta anche in diretta Facebook, perché giustamente, no? Lo dicevamo, quando è che lo dicevamo? Cioè la gente che fa le cose e si riprende pure, no? Senso, cioè stai a fare una cazzata e la riprendi. Cioè c'era tipo la diretta Facebook della messa che hanno fatto a Monterotondo. Pure a Monterotondo? Perché a Monterotondo è stata la prima. In provincia di Perugia ci sono stati più casi. Sì, sì, no, però a Monterotondo è stato uno dei primi casi. Poi dopo anche in Reggio Calabria c'è Michela che vorrebbe dire qualcosa. Non so cosa, però adesso lo sentiamo. Perché... No, scusate, salve a tutti, salve. Ho approfondito quello che ho visto ieri nella diretta. E praticamente ho scoperto che tutti i preti di tutte le chiese di Monterotondo si sono messi fuori alla piazza del Duomo e hanno fatto questa benedizione delle palme insieme. Praticamente hanno potuto partecipare soltanto quelli che abitavano lì affacciandosi alla finestra, ma sembrerebbe che non ci sia stato pubblico. In realtà invece, per esempio, in alcune regioni, lo leggevo appunto relativamente alla provincia di Perugia, in più casi ci sono state delle messe e in alcuni casi anche, diciamo, appunto con delle prove su Facebook, delle dirette, delle cose. Questo ha portato, se non ho capito male, per esempio il comune di Perugia o qualcosa del genere a denunciare un istituto parrocchiale, perché ovviamente ha violato il decreto del coprifuoco, chiamiamolo così. Pure a Frascati. Allora, sì, Frascati, Calabria, zona di Perugia. Vabbè, poi c'è stata questa questione del Monterotondo, che comunque è una. Cioè, io il problema è quello che la cosa che mi fa un po' incazzare tutta questa questione. Non è tanto perché io capisco che magari chi ha la fede, chi è religioso, chi vuole pregare in Cristo, c'ha bisogno magari di questa aggregazione o roba del genere. No? E allora, però... chi vuole pregare, allora chi vuole correre, allora chi vuole scopare. Esatto. Infatti, poi dopo questa cosa deve valere per tutti. Ma non è tanto per le persone in sé, perché lasciamo le persone. Io parlo dei preti, no? Cioè il prete che dovrebbe essere un rappresentante, voglio dire, cioè è comunque un'istituzione in questo caso, no? Dovresti rappresentare un simbolo di senso di responsabilità, anche educativo, no? Cioè nel senso, e invece te ritrovi le polizia, i carabinieri che entrano dentro ste chiese e fanno multe a sganassa, perché poi alla fine, oh, ma negli ultimi 5-6 giorni, tipo record assoluto dei multati per la gente che andava in giro per le peggio cazzate. Poi dopo gli hanno fatto, facevano le verifiche e vedevano che raccontavano le stronzate. Anche se, devo dire la verità, che il culmine c'è stato ieri, l'altro ieri, testimonianza video di mio suocero, che a Tenerife sono andati a prendere una con l'elicottero che si era messa spiaggiata su uno scoglio, così, perché dice a lei il coronavirus gli fa una pippa e non gli frega un cazzo dei decreti, si era messa su sto scoglio a Pier Sole e sono andati con l'elicottero a pialla, perché e quindi perché faceva tanta scena, però se no ci poteva andare col gommone. Hanno lanciato una rete, l'hanno tirata via, tipo l'hanno tirata su, sì. Spiaggiato. Ok. No, ma poi io penso che oltre alla multa poi dopo gli faranno pure pagare. Ah, secondo me questa è finita direttamente nella paranza, io ve lo dico. Secondo me sono caricata dentro. Ragazzi, ma invece io volevo fare partire da un ragionamento che tra virgolette può sembrare, diciamo, detta così, anche un po' sconfortante, ma in realtà io cercherò di rigirare la questione e vedere il bicchiere mezzo pieno, perché praticamente credo che domani sia, se non ho fatto male i conti, il quarto martedì, quindi sostanzialmente il circa voto per pieno, il 30° giorno dal primo decreto di chiusura di tutto. Questo significa da una parte che è già passato un mese da quando siamo più o meno chiusi in casa, Però vuol dire anche che siamo, secondo me, e che voglio essere abbastanza fiducioso e ottimista, siamo più o meno al 50% dell'opera, siamo al giro di boa. Io continuo a essere convinto che massimo per i primi di maggio qualcosa si comincerà a sbloccare, anche perché i numeri continuano a essere, diciamo, in un lento ma costante miglioramento, quindi voglio continuare a credere, a pensare che per maggio ci faranno ricominciare ad avere una routine quantomeno accettabile. E quindi dai, vediamola così. Abbiamo scollinato e adesso comincia la discesa verso gli ultimi 30 giorni di clausura. Voi che ne dite? Beh, guarda, la pensano identicamente a te, proprio nella stessa maniera, Milano, Francoforte e Parigi, che sono in notevole rialzo con le borse, quindi c'è l'ottimismo nel virus. Marco Gualdi, tu che se invece l'ottimismo non sai proprio... No, non voglio essere così pessimista da essere ottimista, insomma, quindi o ottimista da essere pessimista, adesso non lo so. Comunque, in ogni caso, ma guarda, io a questo punto non so che dire, forse festeggio il mio compleanno fuori, mi danno una libera uscita, chi può dirlo? Io posso dire la sincera verità, cioè la mia opinione, lo so, vabbè, io sono un po' un caso a parte, no? Però a me anche 2 o 3 settimane in più e sta tranquillo, cioè... piuttosto dare fretta e fare una cazzata, cioè nel senso, bisogna sempre, io capisco che l'economia deve, cioè le cose devono ripartire, io lo capisco, però onestamente qui la cosa è comunque abbastanza seria, no, nel senso, perché abbiamo visto... Ma io, Simone, guarda, ti dico la verità, non ne faccio un discorso legato tanto all'economia, perché capisco che poi ci sono due tipi di economia, ovviamente c'è quella dei grandi numeri e poi c'è quella percepita, e quella percepita, diciamo, dall'uomo della strada alla fine cambierà relativamente. E quello che però faccio come discorso prioritario è quello di una forma, diciamo, come dire, di una forma mentis, di una sanità mentale residuale, perché... lo dicevamo, l'abbiamo detto tante volte, abbiamo detto con Lobby, l'abbiamo detto tra di noi, molti di noi non ce la faranno a restare confinati ancora per tanto tempo, anche se da una parte mi accorgo, la riflessione nasce proprio dal fatto che non mi sembra che sia passato addirittura già un mese da quando abbiamo iniziato questo calvario, segno che in qualche modo ci stiamo anche abituando. L'ho anche raccontato settimana scorsa, questo disagio, questo malessere che comincia, come dire, a sopraggiungere le poche volte che esci di casa e ti allontani un po', però proprio per evitare questo fenomeno peggiori, noi dobbiamo avere la possibilità di ricominciare un pochino a uscire di casa, perché ne abbiamo un bisogno fisiologico, secondo me, soprattutto quelli quello shock post-traumatico, secondo me ci sarà comunque, perché tanto alla fine in un modo o nell'altro ne risentiremo di sta cosa, cioè quando ricominceremo a comportarsi normalmente ci vorrà un po' di tempo, insomma. Questa è poi la cosa, forse la cosa un po' più brutta, più triste, insomma. Ma anche perché, Simone, noi non potremo ricominciare. Siamo fortunati perché normalmente non ci siamo mai comportati. Noi siamo fortunati perché normalmente non ci siamo mai comportati, per cui tutto sommato. Sì, noi normalmente non faremo. Questo è vero. Non l'ho capito, cioè, a parte che vi siete parlati sopra, quindi. No, va tutto bene, tranquillo. No, dai, attenzione, c'è una breaking. Attenzione, c'è un gatto, sta attraversando la strada. Giunto dall'altra parte. Addirittura dal gatto ce ne frega niente. Siamo arrivati proprio. Però, ragazzi, vi rendete conto che la natura e gli animali si stanno riprendendo degli spazi ormai dimenticati? Oggi si vedevano i delfini nella laguna di Venezia, praticamente. E beh, perché i ciuffi d'erba che a cosa piazza Navona? Insomma, l'erba è fenomenale, perché non la fermi, comincia a appena smetti di calpestare il suolo 2 giorni, spum, subito rispunta rigogliosa anche attraverso i sanpietrini, incredibile, tanto che l'asto passo. Sì. Comunque il record di multe è stato proprio questo fine settimana, con 20.000 sanzioni, ragazzi, cioè una cosa impressionante, record assoluto a Milano, cioè a Milano c'è la gente fa cazzo frega a me, figa, io faccio quello che dico io, e vanno in giro, capito? Quindi dicendo che ne so, vanno a lavorare o a trovare la madre malata e poi dopo verificano tutta una stronzata e li multano, che poi io non so, c'ho l'impressione che sta gente, se pensa che queste denunce andranno tipo, che ne so, in condono, che ne so. Sì, ma guarda che secondo me lo pensano in tanti. A parte il fatto che magari qualche meccanismo di condono ci sarà, anche perché non so poi se saranno in grado di processarle tutte quante veramente, tutti questi controlli, perché poi alla fine tu presenti un'autocertificazione e in qualche modo poi il dato che tu presenti deve essere anche confutato nel momento in cui, a parte i casi palesi e plateali, tipo quella che andava a cercare il marito con l'amante o cose del genere, però insomma magari tanti casi potranno contestarsi facilmente, brutto, non lo so. Infatti, brutto sono le contestazioni, per cui immagini di tutti quanti, tutte ste cause che praticamente perché dovranno essere contestate, quindi davanti al giudice, in quanto saranno contenti i giudici. Guarda, io mi immagino che qualcosa devono fare loro. I navigator diventeranno tutti giudici di pace, perché secondo me queste cose si dovranno risolvere in extragiudiziale, sì, se no esplodono, se no esatto, se no esplodono i tribunali civili. C'è Michela che ci voleva fare una breaking news anche lei. No, vabbè, se al microfono però, scusate, se parla di solito. C'ho il microfono che gira adesso. Dicevo che controlli che se voi andate sul Ministero della Difesa, è giusto che gira da solo? Eh? Era una stronzata, niente. No, dicevo che mi sono divertita negli ultimi giorni a vedere che cosa veramente succedeva con queste autocertificazioni e con questi controlli. E praticamente ogni giorno il Ministero della Difesa porta praticamente il reportage di tutte le di tutti i controlli che sono stati fatti il giorno precedente e di tutte le multe che sono state fatte delle persone che comunque, che ne so, locali che hanno dovuto chiudere, persone che sono state denunciate a piedi o in macchina, eccetera eccetera. Quindi diciamo così che la sentenza della multa in realtà viene data subito, in pratica, cioè loro fanno i controlli e poi decretano. In pratica dovrebbero essere così veloci da controllare quelle cose che rimangono in sospeso e chiudere il giorno dopo già con il decreto multato o effettivamente poteva girare, tra virgolette. Hai capito? Sì, però io penso che dopodiché a norma di legge, ci saranno sempre a meno che questo decreto non abbia stabilito delle regole transitorie che non conosco, ma ci può stare. Ma in caso contrario, credo che il sanzionato abbia sempre un margine di tempo legale per fare ricorso, sì, chiamiamolo così. Ricorso, però per il resto, comunque, cioè, il controllo, diciamo così, viene fatto subito e il giudizio viene dato subito. Poi, certo, ricorso. C'hai comunque 30 giorni come le multe normali. Certo, una cosa qui poi volevo sentire, insomma, perché siamo tutti abbastanza giovani, no? Quindi ci ricordiamo il tempo in cui andavamo a scuola. L'unica cosa veramente che hanno sculato proprio tanto sono gli alunni poi quest'anno, no? Perché mo' al di là del coronavirus, quindi non possono vedere le fidanzatine, tutto quello che vi pare. Però insomma hanno fatto metà anno scolastico. Fanno l'esame di maturità, tra l'altro, che pare che devono sostenere l'esame, ma non possono essere bocciati, quindi mi sembra un po'. Allora, io guarda, ho due, diciamo, tra virgolette, nipoti così che fanno l'esame di maturità quest'anno. Sono le due nipoti di Valentina. E la cosa che si sta delineando è nel decreto di oggi, tra l'altro, anche questa cosa qui. Senza scritti, se non si torna in aula. Allora, se non si torna in classe entro il 16 maggio, si farà un esame di maturità. Allora, non si faranno gli esami di terza media, prima di tutto. Mentre invece quelli di maturità si faranno. Ci sarà il voto finale, avrà anche diciamo una valutazione dell'assiduità e del, diciamo, tra virgolette, della serietà con cui lo studente ha diciamo così assistito alle lezioni da casa, quindi una sorta di giudizio etico, chiamiamolo così. E poi non ci saranno le prove scritte, ci sarà una sorta di mega prova orale, d'altra parte se si deve fare in teleconferenza non si può fare diversamente. E quindi ci sarà una sorta di prova orale unica, e questo poi è ovvio che per forza di cose porterà a delle promozioni politiche. Non credo che nessuna commissione si sentirà di bocciare qualsivoglia alunno. Magari voleranno. Ma io penso che se riesce a farti bocciare stando da casa con quello di dietro al monitor che ti suggerisce, insomma. O davanti al monitor, cioè dietro al monitor, sì, che te guarda, dietro e ti suggerisce. Monitor, sì. Te guarda e ti suggerisce. Marco, ti credere, perché ci sono tante realtà in cui tutto questo noi ce lo immaginiamo, perché noi siamo, tra virgolette, abbastanza smaliziati nell'uso sia dello strumento che insomma che delle escamotage. Però ti posso garantire che anche al sud leggevo una statistica che dice che una famiglia su quattro in casa non ha nemmeno un personal computer. Quindi, cioè, aspetta un attimo prima di pensare che tutti la sfangheranno perché possono barare, c'è chi non ha gli strumenti tecnici e umani per riuscire a farlo volendo. Intanto scusate, saluto Gianluca. Tu ci credi? No. Di cosa? No, perché sai quando fanno sti censimenti, sti sondaggi, la gente, lei ha un computer in casa, no, non tengo niente, io non tengo niente. No, no, in realtà io ci credo perché vedo che c'è anche una mancanza culturale, non hanno un computer non perché vogliono far finta di non averlo, ma semplicemente perché non hanno l'esigenza di avercelo. Il internet si è massificato con l'arrivo degli smartphone e con magari anche con l'arrivo di Facebook e di altri social in maniera drastica negli ultimi 8 anni, quelli che siano, ma per molti internet è legato allo smartphone. Ci sono tante categorie di persone che il computer non lo sanno che cos'è, meno di qualche anno fa, ma ci sono ancora. Saluto anche Girasole che ci ha raggiunto, dice: stasera alla diretta Conte ha detto che 1 su 3 non ha un PC. Vabbè, quindi in qualche modo il dato è più o meno quello che leggevo anch'io stamattina. È verosimile, purtroppo con una disparità netta, diciamo l'approssimazione. Al nord sicuramente ce l'hanno tutti, al sud, ma me lo dice anche Valentina che insomma insegna alle elementari, tante famiglie non ce l'hanno il PC e non hanno la cultura per pensare di averne bisogno. Ma d'altronde oramai il PC è anche uno strumento bosoleto, perché insomma diciamo anche questo un po', perché cioè, oggi comunque c'è il tablet, fai tutto col tablet, per chi utilizza, no, lo strumento in quel modo lì, cioè nel senso mi devo comprare un computer, un portatile per andare su internet, a quel punto mi compro un tablet, cioè penso che la gente va a ragione così. Ma comunque il cellulare, perché tanto alla fine, ripeto, l'utilizzo per cellulare, sì vabbè, ma tanto cellulare, tablet più o meno rientrano nello stesso cazzo, ma la gente secondo me fa un po' tutto un pastume, no? Comunque una cosa carina invece e qua è che praticamente c'è stato questo accordo tra le Poste Italiane e l'Arma dei Carabinieri. Molto bella questa cosa, ma poi bisognerà vedere in che maniera, cioè quali sono le discriminanti, come funziona questo meccanismo, qual è lo scopo, perché praticamente i militari potranno andare a prendere i soldi della pensione delle persone che sono in difficoltà. Le persone over 75 anni, leggevo oggi, che per qualche motivo hanno difficoltà a muoversi, a poterlo fare di persona, però vedi anche lì io vedo un sacco di soldi che spariscono, lo vedo non lo voglio neanche prendere, ma in sai, considerazione anche 5 euro, quei 3 euro e mezzo, ma no, sembra che se paghi il caffè il carabiniere non lo dovrebbe fare, no? Ma guarda, su questo secondo me molti carabinieri sono ligi e sono assolutamente rigidi nel non accettare, ma comunque io ecco, speriamo questo di esempio, perché secondo me è un altro spaccato di quella che è la società italiana. Io capisco che magari a una certa età non si è particolarmente avvezzi a certi tipi di progresso, però pensare che nel 2020 ci sono ancora tantissimi, io li vedo le volte la mattina quando esco di casa, perché nella mia via c'è l'ufficio postale, quindi lo vedo, tanti vecchietti che ogni mese si fanno a fare la loro drammatica, passatemi il termine, fila davanti all'ufficio postale per prendere la pensione, quando basta farsela accreditare sul conto in banca. Quando all'epoca mia madre praticamente usufruì della pensione di reversibilità di mio padre, che venne a mancare, nel momento stesso in cui io accompagnai mia madre a fare la domanda all'INPS, io dissi: guardi, questo è l'IBAN, versato direttamente qui, e stiamo parlando di 20 anni fa. Non capisco perché dopo perché c'eri tu dietro, però, cioè nel senso, sì chiaro, però io non capisco dopo 20 anni come mai il numero di persone che si vanno ancora a prendere il mazzettino di contanti con tutti i pericoli del caso, cioè, vuoi mettere uscire, stare lì, imprecare a quello, no, che no, ti lo sta fanno davanti. no lo fanno per i soldi, su questa cosa c'ha ragione Walter, lo fanno per i soldi, cioè vanno a prendere i soldi, capito, cioè, perché non di concepirli in maniera, come dire, immateriale, il rotolino da infilarsi la nonna, esatto, nel esatto, si sentono più al sicuro in quel modo. D'altronde non è che puoi biasimarli più di tanto, insomma. Però tanti vanno a prenderli perché magari sono pensioni basse, effettivamente, cioè, devono andare per forza a prenderli, per cui vanno direttamente, se li fanno direttamente a prendere quando gli arrivano. C'è Girasole che esprime il suo, come posso dire, la sua anima conservatrice in un post, dicendo che i giovani sono pure troppo smaliziati nell'uso del computer. Che ci fanno questo computer? Mannaggia, c'ha ragione, tutto sommato c'ha ragione. Invece, no, però sta cosa dei carabinieri è carina. Io dico, cioè, nel senso, non so in che modo Per esempio, il suo sole suggeriva proprio su questo aspetto: dice, si potrebbero preparare delle buste con le cifre precise all'interno, così il carabiniere porta la busta e non, diciamo, non si fa neanche. No, quello sicuramente cioè, sarà un modo, sì, sicuramente gli daranno la consegna in un modo. Il problema è che, cioè, metti in un posto come questo qui, Monterotondo, quanti uffici postali ci stanno? Tre. E quante persone over 75 ricoprono? Qualche migliaio abbondante, no? Qualche migliaio, sì, sicuramente. Ecco, quindi poi alla fine, cioè, nel senso, chi ha veramente bisogno, in che maniera i carabinieri, cioè, poi ce la fanno dopo, cioè, nel senso, di principio è bello, chissà, anche qui magari indagheremo in che modo questa cosa. Ma sicuramente è un, come dire, è un servizio tra virgolette estremo, perché è impossibilitato, anche perché il vecchietto non vuole l'aiuto a prescindere. È chiaro che se lo chiede perché è in una condizione di necessità, ma se no il vecchietto, certo, la mattina, certo, casca il mondo, si fa la sua bella fila, perché, come dice anche Marco, è anche un passatempo, insomma. Comunque, la notizia morti di bestemmie di oggi, ricordiamo, oggi morti di bestemmie tra l'altro è tornato con una puntata un po' ibrida, un po' strana, un po' particolare, ma presto torneremo. E la notizia un po' morti di bestemmie di oggi è che il Ministero della Salute ha inviato gli ispettori al più albergo Trivulzio, che, per chi non lo sa, è uno dei più importanti centri geriatrici, insomma, del nord Italia. E la mente vola agli albori di Tangentopoli, a Poggiolini, a tutti quei tempi. Vi ricordate degli scandali del più albergo Trivulzio? Esatto. Infatti, è un, cioè, nel senso, dentro di noi un neurone era ancora occupato da questa informazione. Perché praticamente, e qui poi tra l'altro si apre un discorso abbastanza infinito, perché, ragazzi, succede un macello con queste case, con le case di cura in particolare, sta succedendo veramente un macello. Comunque pare che praticamente loro abbiano nascosto casi di Covid-19, mettendo a rischio non soltanto i pazienti ma anche il personale sanitario, che giustamente, ora, che il personale sanitario fosse impreparato non ci sta comunque, perché siamo in piena emergenza pandemia. Però si parla, diciamo, addirittura di un divieto formale di usare le mascherine al personale sanitario per cercare di sminuire la portata del problema. Esatto. Ma questi sono i religiosi, sono la minaccia dell'umanità, io ho sempre detto, non c'è niente da fare. Comunque, dicevo, sul fatto delle case di cura, non so se sapete, fortunatamente spero che nessuno di voi, insomma, sia una casa di cura. Guardi, tu sei una casa di cura tu stesso, no? Io ci ho fatto l'obiettore in casa di cura. E insomma, stanno a cascare come funghi. Cioè, nel senso, laddove è entrato come il cavallo di Troia, succede un casino. Cioè, soprattutto se poi non, diciamo, non applichi presidi, come dire, terapeutici adeguati, cercando di, come dire, di nascondere sotto al tappeto la gravità della cosa, è ancora peggio. E infatti le case di cura coinvolte sembrano parecchie. Credo che tra Lombardia, Piemonte e Liguria, se ho capito bene, sono più di 20. Il più albergo Trivulzio sale agli onori delle cronache, appunto perché il nome ci evoca subito qualcosa, ma si parla di tantissime case di riposo e residenze per anziani nel nord, cioè nella Lombardia in particolare, ma non solo. Non so, Marco, tu che pensi? Vabbè, questa forse in una condizione come questa, secondo me è forse l'unica cosa meno gestibile, perché comunque lì bastava veramente che entrava qualcuno anche per sbaglio, un parente andava a portare un mazzo dei fiori o via dicendo, lì cascano come. Vabbè, ma considerando poi che comunque sono settimane, se non mesi che gira sto virus, quindi prima o poi doveva succedere, insomma, In realtà oggi c'è stata anche una polemica sul fatto che proprio sulla questione numerica, ma questa è una cosa che noi diciamo sempre pure con Walter, sul fatto che in realtà la registrazione di sti morti per Covid, cioè, non è neanche realistica, cioè, sai quante persone sono morte per colpa del coronavirus e magari non sono state notificate come tali. Ma guarda, in realtà, Simone, oggi leggevo l'ennesimo studio che stabilirebbe che il numero di infetti, quindi il numero di contagiati complessivo in Italia, si potrebbe stimare tra i 5 e i 6 milioni di individui, che vuol dire il 10% della popolazione, sì, che è un dato enormemente diverso da quello che ci, diciamo, da quello che ci viene dato per assodato dagli organi ufficiali, però è un dato assolutamente, come dire, statistico, non è un dato dimostrato, però secondo me è un messaggio, è un numero, al di là del fatto che in certi termini è anche plausibile, ma è anche un dato che dovrebbe in qualche modo ridimensionare in parte la gravità della questione, perché per quanti siano i morti non dichiarati, diciamo che c'è un numero di morti ai quali non è stato diagnosticato il virus e che quindi non entrano nelle statistiche. Io credo che rispetto a 5-6 milioni di contagiati in totale, anche se il numero di morti fosse il doppio di quello attuale, la percentuale, il tasso di mortalità di questo virus si abbasserebbe comunque in maniera drastica, che, per carità, lo ripetiamo, di fronte a una morte la statistica non conta, quindi non è che se sono morti, non è che se il tasso di mortalità è l'1% invece del 5%, la cosa è da considerare, diciamo, eticamente meno grave. Però da un punto di vista puramente scientifico, da un punto di vista puramente, diciamo, come dire, numerico, proprio a livello di proporzioni e di gravità della malattia, staremmo parlando di qualcosa di più grave. Lo sapevamo, in realtà. Noi continuiamo a sostenere, qualcuno continua a sostenere il fatto che comunque le morti delle polmonite a novembre, ottobre-novembre, insomma, così improvvise, picchi improvvisi de morti delle polmonite così da cazzo de cane, insomma, non è la cosa. Comunque, cioè, lobby frontale. Scusa, io volevo leggere una breaking news, perché da fonti istituzionali del governo inglese Boris Johnson è stato ricoverato in terapia intensiva, però diciamo le indicazioni sono che arrivavamo a questo, ce l'avevamo. Mi tagli la scaletta. Non sapevo. No, è perché questa notizia in particolare è stata data pochi minuti fa. Quindi il fatto che lui fosse in ospedale ce l'avevamo, il fatto che lui poi sia stato spostato in terapia intensiva, no. Però pare che le condizioni non siano, diciamo, non è in rianimazione cardiopolmonare, insomma, non è attaccato a delle macchine. Ma però in terapia intensiva, comunque, stai nell'anticamera del non sto mica più tanto bene, diciamo così, ecco, mettiamola in questo modo. No, il problema è che oggi c'era la notizia del fatto che lui era stato ricoverato per sintomi persistenti, che non è una buona cosa. Comunque non usciva da febbre alta e da altri sintomi, effettivamente avrebbe potuto curarsi un po' prima, diciamo, anche un po', nel senso, questo macismo sperava così, nell'immunità di gregge. Di gregge, esatto, cioè lui si è circondato di persone immuni, così dicevo, vedrai che mi immunizzo anch'io. Peccato che sta cosa, insomma, è una delle cose scientificamente più controverse, insomma, che ci siano. Però è così. L'immunità di gregge non è controversa, è solo che un conto è se la fai con i vaccini, un conto è se la fai facendo morire la gente. Soprattutto perché l'immunità di gregge, lo dicevamo l'altro giorno, non può funzionare se non si dimostra prima che l'anticorpo che il malato sviluppa è immunizzante, ovvero se l'anticorpo non persiste nel corpo e il suo effetto svanisce, l'immunità di gregge non ci può essere, perché vuol dire che tra un mese e mezzo, due, quando la presenza dell'anticorpo che ti tutela nel tuo corpo si disperde, tu puoi tornare ad essere in pericolo, ti puoi di nuovo ammalare. Comunque è sempre una cosa temporale, però, credo, prima che, cioè, non è che ti finisce l'effetto dopo un giorno, quindi sì, devi persistere qualche mese, per cui il problema è che non c'è questo dato. È una cosa nuova, quindi, e quindi è controverso. Non si può sapere. Ma quella povera tigre, no, in generale, no. L'immunità di gregge in generale funziona. In questo caso, non si sa se è una cosa che funziona. Ma la povera tigre col coronavirus. Allo zoo di New York, credo, perché a quanto pare si sono dimostrati in particolare nei felini, però in generale ci sono breaking stati news a proposito di cani e gatti. C'è un tizio con un cellulare in mano che guarda altrove, però lo tiene acceso, con un cane al guinzaglio che si sta andando a spasso, così. Secondo me non sta cacando il cane, vabbè, denunciamolo. Se il cane è il suo, ma non so neanche se è il suo. Comunque sono quattro volte che provo a dirlo. Lobby frontali giustamente ci dice che negli Stati Uniti il problema della religione è molto più tragico che da noi, cioè, vabbè, lì in effetti ci hanno, diciamo, dei casi un po', perché lì piace andare a fare i cori, devono fare, vabbè, oltre al fatto che hanno poi tutte quelle loro diramazioni radicali e via dicendo, insomma. Beh, ma gli americani sono esagerati, sono estremi in tutto, le fanno le devono fare sempre in maniera plateale. Sì, sì. Ma infatti, secondo me, non era possibile che un paese che non era l'America ci avesse il primato di qualcosa, capito? Dovevano averci il primato anche di questo, anche se ancora loro fingono di non esserci arrivati, perché i numeri pare che, insomma, pare che la Spagna sia in vantaggio, insomma. Però secondo me vedrete, insomma, che le cose, a quando a bocce ferme, le cose saranno molto diverse da come non fosse altro oggi. Che per il numero di abitanti gli Stati Uniti, per forza di cose, supereranno ogni singolo paese europeo nelle statistiche, insomma, è inevitabile. Però no, vabbè, cioè, noi gli Stati Uniti li devi confrontare con tutta l'Unione, no? Nel senso, non è poi confrontare con ma loro sono loro di fatto sono un paese unico, noi no, per cui per noi varranno comunque sempre i dati delle singole nazioni. Certo, se facessimo il conteggio europeo ce la potremmo giocare più o meno ad armi pari, sicuramente sì. Comunque poi, senti, la prossima, ma invece il chat è bellissimo, tu leggevi questa cosa di Lobby, ma in realtà c'è stato tutto scambio di messaggi tra Lobby e Girasole, perché Lobby faceva notare a Girasole, sì, parlando dei famosi giovani che stanno usare fin troppo bene il computer, no, Lobby dice: guarda che ci sono dei ragazzi che non sanno manco mandare un'email, poi magari fanno il culo a Fortnite, e Girasole che dice: io magari la mail la mando, ma Fortnite non so cosa sia, e da lì tutto un volo pindarico, insomma. Eh sì, perché... Belli, i nostri ascoltatori sono bellissimi in chat. No, vabbè, ma è chiaro, cioè, nel senso, se non sa che cos'è Fortnite, nel senso, gli manca l'elemento della metà, neanche non ti sei perso niente. Esatto, è un gioco. Vabbè, sì, è un videogioco dove i ragazzini ci perdono le ore e si sparano fra di loro, insomma. Ma è anche divertente, tutto sommato, cioè, non mi sento di condannarlo. Invece, 1000 contagi in meno oggi. Aumentano i guariti. Vabbè, i morti un pizzico di più di ieri. Ma siamo in pieno pianoro, come dicevi tu l'altro giorno, in pieno plateau, perché pare che l'ho detto io, No, chi l'ha detto? No, vabbè, però insomma. Vai. No, dicevo, però pare che una definizione molto in voga nella comunità scientifica sia plateau, per definire appunto questo andamento quasi retto, questo piccolo momento che speriamo sia piccolo, perché sto plateau si sta un attimino protraendo da 5-6 giorni, ora non saprei bene quanti. Stiamo aspettando tutti che ci comincino a dire finalmente se scende in maniera significativa. Vediamo un po'. Tra l'altro volevo dire proprio questa cosa, Simone, perché mentre in Lombardia la situazione finalmente si sta un attimo diciamo scaricando, tranne che a Milano, dove ancora c'è un po' di apprensione. Il Lazio, parliamo un attimo del Lazio, perché stiamo facendo la figura di quelli che si sono comportati egregiamente. Noi sembriamo assurdo, Roma, no? Enorme, io non me ne capacito, perché sembrerebbe che siamo stati tra i più zelanti, siamo quelli tra cui, diciamo, che forse sono andati meno in giro della media, e oltretutto forse ci ha aiutato il fatto che, questo non lo ricordiamo spesso, ci ragionavo questa mattina, Roma è stata la prima città in Italia che ha affrontato dei casi di coronavirus, sì. Perché quando sono arrivati i famosi turisti cinesi, che poi tra l'altro sono stati allo Spallanzani e sono stati guariti entrambi, e anche il primo ragazzo italiano malato di rientro dalla Cina è stato curato allo Spallanzani, che è l'ospedale che per la prima volta ha isolato il virus, tra l'altro, quindi ricordiamo pure... È un'eccellenza italiana assoluta. Io credo che in termini, diciamo, di ospedale specifico specializzato per le malattie infettive, lo Spallanzani sia, non voglio togliere niente al sacco di Milano che sta lavorando in piena emergenza, ma secondo me lo Spallanzani è il top in Italia, e questa cosa sicuramente ha aiutato, perché fondamentalmente ha gettato le basi per essere più pronti che in altre regioni. Poi sicuramente i ritmi di una città come Milano, che anche se più piccola sono indiavolati, hanno causato chiaramente una diffusione diversa. Però leggere che per una volta il centro-sud si è comportato meglio del nord, l'abbiamo già detto altre volte, un pochino ci fa piacere, perché è un po' un riscatto sociale che forse ci toglierà di dosso un po' di quei luoghi comuni che ci hanno tirato addosso gratuitamente per decenni. Ma guarda, io devo dire che se dovessi prendere due video, ad esempio, no? Tipo il video sotto casa di Fedez e il video del tizio che suona la chitarra su Piazza Navona, cioè si vede una differenza sostanziale. È vero che stiamo parlando di due ambienti e circostanze diverse, no? Però sotto casa di Fedez la gente sotto, bravo, bravo, ma come? Cioè, non avete capito che il principio di questa cosa è quella di starsene sul proprio balcone, e invece quello che suonava su Piazza Navona, c'erano quattro persone in Piazza Navona che gli hanno battuto le mani. Cioè, nel senso, il problema è che Roma, con tutto il discorso del turismo e via dicendo, ok, vabbè, tutto chiuso, è tutto... però potenzialmente poteva essere un più un caos dal punto di vista della gestione. Secondo me la gente in qualche maniera si è comportata bene, cioè c'ho sta sensazione. Poi dopo magari però i dati parlano chiaro, insomma, alla fine comunque nel Lazio con quanti soldi? In Lazio abbiamo 3.000 casi circa, 3.000 casi, esatto, cioè, numero di mortalità, guarda, un tasso di mortalità neanche alto, perché su 3.300 casi in totale abbiamo avuto 229 vittime, quindi fondamentalmente un numero, come dire, tra virgolette, rassicurante, ecco. E sì, no, no, infatti questa è una cosa che... No, stavo leggendo sto articolo, che adesso me lo leggo e poi dopo magari... non so se ne parliamo, perché praticamente qui Repubblica, sai, lancia sti titoli un po' sganaway, no? Un po'... perché, cioè, per la prima volta... No, se, perché... Allora, se io leggo solo il titolo, perché sennò poi dopo... Alla fine sento pure Gualdi che cosa ne pensa. Per la prima volta ha craccato il codice genetico umano... E produce proteine mai viste. Ma che cazzo vuol dire? Ma chi è che produce proteine mai viste? Il codice craccato? Esatto. E c'è il Trojan. Guardi, che significa? Tu che sai, sei un esperto. Guarda, secondo me è un falso positivo, dovuto al fatto che il crack probabilmente si comporta come appunto un Trojan, però in realtà è soltanto un crack che praticamente fa finta che il codice genetico umano sia in rete, quando in realtà si crea un mini server interno. Tutto chiaro, no? Okay. Ma secondo me, guarda, già l'incipit dell'articolo è ridicolo. Dice: per la prima volta è stato craccato, ovviamente tra virgolette, il codice genetico umano, ottenendo cellule capaci di produrre proteine mai viste prima d'ora. Cioè tu praticamente hai messo un bug in un sistema e questo sistema ha reagito in maniera caotica, detta così. Stanno uscendo fuori proteine mai viste perché tu hai creato una condizione, come dire, non naturale per il codice genetico, probabilmente. No, però io quello che mi domando io è, cioè, ok, proteine mai viste, nel senso che, ma indotte oppure casuali, perché tu hai buttato lì il crack e quello è impazzito, cioè nel senso, non è chiaro, bisognerebbe, no, ma secondo me bisognerebbe leggerlo su stampa di settore, perché poi alla fine su una testata generalista non leggi la notizia, leggi quello che il cronista ha capito della notizia originale, quindi... tra l'altro è quello il problema di fondo, perché cioè, onestamente io posso dire questo del mio campo, no? Cioè, quando vedo un giornalista che non è tecnico in un campo che magari mi è proprio, scrivere genericamente di un tema che io conosco meglio di lui, mi rendo conto di dove siano i limiti del giornalismo. Cioè, prendi un tema che non è tuo, cerchi di arraffazzare quello che hai capito e scrivi cose che spesso non sono totalmente esatte. Pensa quanto è ancora più complesso se parliamo di temi come le scienze applicate, come la medicina, come la fisica, come cose in cui se non sei un professionista strettamente, diciamo, accademico, non puoi capire così tanto di quello che stai scrivendo. Poi se sei un giornalista scientifico lo fai anche bene, ma se sei un giornalista di Repubblica, con tutto il rispetto, magari non ci hai capito un cazzo, come non ci capirei un cazzo neanche io, ecco. No, no, è interessante perché nell'articolo c'è anche il trafiletto in inglese, che cioè, quindi questi non è che... We have cracked the DNA and we have foreign proteins. Esatto, sta dentro lo zip, poi c'è la cartella crack e c'è il file TXT che ti dice codex genetico after the installation drop the file in the installer folder. Esatto. Vabbè, sono belle cose. Da gatta che gratta, il passo è breve, insomma, praticamente abbiamo fatto una nuova sequenza di aminoacidi e via, vabbè e poi io sono sempre curioso di sapere, cioè, nel senso, ma questa cosa è simulativa o hanno iniettato una modifica del codice genetico dentro al corpo di uno, cioè, perché è questo che mi mette sempre un po' di curiosità quando si parla di queste cose, insomma. Vabbè, comunque dai, poi magari qualcuno che ci capisce un giorno di questi ci spiegherà. Magari il nostro consulente tecnico scientifico in questi casi è sempre il buon Carmine Puccio Console, magari se non è preso troppo dalla cosa c'aveva oggi? La sinusite aggressiva, quindi ci ascoltava, ma magari era un po' preso. E interviene Virgì che dice: le proteine sono catene di aminoacidi. E vabbè, fino a qua. È come formare parole. Aspetta, che mangia le notifiche. Con lettere messe a caso. Mangia le notifiche, mi fanno incazzare a me. Ok, cioè nel senso. Vabbè, ha ridetto quello che dicevo io, da Gattaca come avevo detto, da Gattaca Grazza, il tempo è, insomma, il passo è breve. Okay. Vabbè. Interessante. Ecco. Bravo PRG, che ci istruisci. Non so con qua... Attenzione, è intervenuto anche Puccio, perché poi Puccio si è sentito chiamato in causa. Sta ci voleva sapere. Grazie. Puccio scrive: sto chattando con Michela, bravo. No, tra l'altro tu devi sapere, Pizzi, che nel frattempo qui si sta organizzando, a nostra insaputa, uno speciale di videoludica su Final Fantasy VII, che deve essere veramente una gran bella idea. Ma chi lo sta organizzando, scusi? Beh, a mia insaputa non può essere una cosa del genere. No, in realtà ne stanno parlando sui nostri canali abituali, insomma. Comunque veramente sarebbe veramente bello, sì, perché insomma mi fa tornare a... Che era il 1998-99, non mi ricordo. Vabbè, la prima PlayStation, Final Fantasy VII, un gioco. Sì, PlayStation 1, sì, quindi a voglia indietro nel tempo. Beh, sì, è uscito il remake, pare, anzi, il primo episodio del remake, che tra l'altro è un remake in 3 episodi di una serie di videogiochi sull'ambientazione di Final Fantasy VII. Quindi praticamente usciranno tipo 6-7 dei giochi. Ma sì, gli ha preso brutto Square Enix, ha detto: oh, ma sto Final Fantasy VII che non avevo mai voluto fare, sono tutti tanto affezionati, mo sai che famo, gli famo uscire una caretta di roba. Ma però insomma, del tuo primo episodio pare che ne parlano bene, però vabbè, noi non è questo il... La sede, esatto. E niente, io ora in questo momento ho finito le notizie, però vedo che sono le notizie. Ecco, esatto. Oh, Marco, non mi dire che hanno messo il Iron Sky 2 su Prime Video. Iron Sky 2 su Prime Video, e stavo appunto postando. Vabbè, devo andar via, ragazzi. Allora, a me il primo è piaciuto tantissimo. Anche a me. Cioè, devo dire, veramente tanto de cappella. Cioè, nel senso... Veramente grande. Ma sai che l'ho visto insieme a Marco, giusto Marco? Sì, l'abbiamo visto insieme, cioè. Figo. Siamo veramente... Già solo l'inizio vale tutto il film, secondo me. E quindi se c'è il secondo, che neanche sapevo, sono contento. Sicuramente. È un film un po' tribolato, nel senso che insomma se ne parlava da diversi anni, doveva uscire, c'erano stati dei ritardi nella produzione, però insomma lo aspettavamo tutti con ansia. Raccontiamo l'incipit del primo Iron Sky, che è un film praticamente molto indipendente, prodotto veramente con mezzi quasi, come dire, semiprofessionali, nel senso che non c'era dietro una produzione canonica. E la storia parte dall'incipit per cui i nazisti, quando se la sono vista male alla fine della seconda guerra mondiale, sono scappati nella faccia coperta della luna, salvo poi a un certo punto tornare e anche un pelino incazzati sulla terra con la loro tecnologia dell'epoca, però insomma con tutta una serie di, cioè, l'unica cosa che si permettono è una tecnologia rubata a un astronauta nero. Ma è negro, esatto, lo vedo. Esatto. E poi lo sottopongono al processo di arianizzazione, che è fantastico. Esatto, sì, no, è geniale, assolutamente geniale. Ovviamente è un film assolutamente di presa per il culo della... Sì, sì, è un film ironico, indipendente, fatto con mezzi, però tecnicamente non indifferente per i mezzi che c'erano, insomma, quindi... Invece io ritornerei sulla Terra, in particolare... No, vabbè, perché siamo andati sulla Luna, no? Cioè, su Iron Sky. The Dark Side of the Moon siamo andati. Esatto. Se invece vuoi tornare sulla Terra, più precisamente tornerei a casa nostra, dove... Prendete il poro Gigi non si vede più, non si vede più tanto in giro, però quando si vede è meglio che non si vede, cioè, perché l'ho visto io stamattina in diretta, cioè stavo lì, me lo guardavo e dicevo: ma che cosa fanno quelle persone lì dietro ammucchiate? Ma poi lui non capiva, cioè a me quella cosa che è bella non è che capiva, lui capisce, vuole fare il sarcasmo, cioè vuole fare, capito, il cioè che vuole pure il puntiglioso, e vuole poi fare la persona di spirito, ma questo spirito non ce l'ha. No, capito, perché giustamente per avere spirito devi avere un minimo di coscienza di quello che ti succede intorno, cosa che lui non ha. Praticamente raccontiamo quello che è successo praticamente durante un'intervista, una video intervista. Agora, tu immagini, questo l'ho visto in diretta, quindi vai. Immagina Agora, programma sulle 3, la giornalista Bortoni intervista Di Maio, che sta lì a fare il belloccio perché sono arrivate le mascherine, i respiratori, sono arrivati questa notte, vedete, sono arrivati questa notte, quindi per fare la bella figura non li hai ancora distribuiti, va bene, va bene, li hai tenuti lì, e già questa è una cosa che potremmo parlarne, ma evitiamo. E c'era lui praticamente a diversi metri di distanza da un assembramento di protezione civile e polizia, adesso non so chi erano, con le mascherine, ma praticamente gomito a gomito uno vicino all'altro. Allora a un certo punto il giornalista gli fa, fatto sì, ma perché si parlava di distanze minime da tenere, fatto sì, ma lo faccia rispettare anche dietro la distanza, facendo la battuta, e lui si gira, ma no, guardate che sono a più di 5 metri, io sto bene, sto tranquillo. Certo. Non ha capito minimamente, no, che erano quelli che erano tutti assembrati praticamente, cioè nel senso che, esatto, invece, ma certo, faccia rispettare la distanza anche intorno a lei. E lui si guarda intorno e dice: no, sono tutti distanti, sono a 5 metri. Se vuole, conto con i passi. Voleva far pure il simpatico, capito? E invece in realtà non aveva capito cazzo. Erano quelli che stavano, tra di loro erano ammucchiati, che stavano di dietro, poi tra l'altro, quindi pure belli inquadrati, tutti ammucchiati, capito? Cioè, vabbè, ragazzi, ma non c'è un cazzo da fare. Di Maio si è reso, secondo me, come dire, protagonista dell'ennesima dimostrazione del suo essere nullo, completamente inesistente in ambito politico, pochi giorni fa, perché non so se avete seguito la querelle tra praticamente la stampa, in particolare il giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni, e la Russia. Sostanzialmente Iacoboni, che in questo periodo personalmente trovo un po', come dire, un po' surclassato dalle sue stesse paure, si è comunque trovato a fare delle considerazioni su una serie di articoli che in qualche modo cercavano di gettare delle ombre sulla presenza dei militari russi in Italia, perché giustamente la domanda che lui si è posto è: ma se serve un aiuto di tipo medico, perché la Russia ci manda dei militari specializzati in rilevazioni geo cose, insomma, oddio, non mi viene la parola, scusate, però diciamo la qualifica militare di questo personale che la Russia ci ha mandato era assolutamente inadatta, incongruente con lo scopo per cui erano arrivati a dare una mano. E allora Iacoboni ha cominciato a fare una serie di articoli che cercavano di analizzare la dietrologia di questi motivi per cui si potrebbero essere affacciati questi militari russi nel nostro paese. E ovviamente è stato attaccato con parole assolutamente inaccettabili dalla Russia, che sostanzialmente l'hanno anche un po' minacciato, nel senso che una frase usata dal, non mi ricordo se dal ministro degli esteri russo o comunque da un'altissima carica russa, riferendosi a lui e ai suoi articoli, è stata né più né meno: chi, attento, perché di solito chi scava una fossa di solito ci finisce dentro. Insomma, una minaccia neanche troppo velata, e un attacco comunque alla libertà di stampa, che forse loro non contemplano come la contempliamo noi in Italia. La cosa brutta è che basta. La cosa brutta è che nessuno in Italia, di quelle che sono le figure istituzionali preposte a farlo, quindi Di Maio in primis, hanno fiatato per replicare a queste gravissime ingerenze russe, ecco, ma perché sì, ma si parla di Di Maio. Beh sì, però diciamo, se proprio non lui, magari mi sarei aspettato almeno, che ne so, te la butto lì, un Zingaretti o comunque dei leader politici di un certo calibro, quantomeno una presa di posizione. E questa cosa è mancata un po' dappertutto, ecco. Non lo so, guardi, c'è qualche... No, la novità questa sera è piuttosto tranquilla, notturna. Si vede in lontananza un televisore 50 pollici che trasmette immagini che non riesco a vedere. E non è il tuo, luci... però. No, non è il mio. E il terrazzo dei vicini è ancora illuminato, i panni si stanno lentamente asciugando, molto lentamente, non essendoci appunto sole. Si stima che per domani dovrebbero essere pronti per essere ritirati, e niente, non ci sono attraversamenti o passaggi di persone. Ebbene, bene, bene, ragazzi, ma c'è in corso un qualche tipo di Grande Fratello, per curiosità? Eh sì, sì, Grande, certo. Fratello. Cioè, però il Grande Fratello con i personaggi? Sì, forse sì, quello VIP. Ma cioè, nel senso, ma vi sembra una cosa regolare secondo voi? Cioè. Tanto quelli sono i più sicuri in assoluto, stanno chiusi là dentro. Gli unici che non corrono il rischio che non hanno mai corso il rischio, ed è il motivo per cui non hanno mai voluto sospendere il programma, è che essendo entrati dentro la casa prima dell'esplosione dell'emergenza, perché credo che il programma sia iniziato più di 2 o 3 mesi fa, non so bene, loro erano assolutamente al sicuro. Il problema è per quelli che settimana dopo settimana sono usciti da lì dentro, perché poi insomma si vanno ad inserire in un contesto più problematico e così. Però vabbè, fondamentalmente chi se ne frega, nel senso che è un programma che non so se voi seguiste abitualmente, io non l'ho mai seguito. Possono anche essere morti di terremoto, non lo saprei mai. Comunque interrompo per un intervento, c'è un passante con 2 cani che praticamente ha passato entrambe le fasce, passando sul marciapiede, ed è girato veramente all'angolo, quindi calcio d'angolo. No, continua Walter, che sento che stai... No, stavo un attimo trangugiando dell'acqua in realtà. Quindi stavamo dicendo? Io intervengo così giusto per dire che Alessandro Politi, sapete, no? Il giornalista delle Iene, che poi a me già associare il giornalismo alle Iene, nel senso che non vuole essere una battuta provocatoria, è un giornalista, perché di solito non tutti quelli delle Iene lo sono. Qui su quest'articolo dicono che il giornalista che ha costretto le Iene a chiudere, perché su Alessandro Politi praticamente pare, io non so neanche chi sia, però trovo la notizia comunque interessante, perché adesso c'è il coronavirus da 1 mese e non guarisce. E quindi non soltanto ha costretto... Però manco muore, scusate, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, nel senso... Tutto sommato, infatti, ci può anche insomma. E mentre che, alla fine, dato che stavamo parlando su Amici, che ha continuato Amici naturalmente, ha vinto la cantante sconosciuta che tornerà a essere sconosciuta, grazie a Dio. C'è però il problema, la tristezza è che giustamente non ha potuto festeggiare, cioè nel senso non poteva abbracciarsi con gli altri. Sono veramente grossi problemi. Sono grossi problemi davvero. Invece sul giornale.it ci tengono invece, sapete insomma la caratura della e questo infatti poi ritorna al perché ho chiesto del grande fratello, perché insomma sapete la caratura della testata. Sul giornale.it Aristide bacia Antonella Elia al grande fratello. Io non so chi sia Aristide, uno con tanto coraggio. E veramente baciando nella Lia, ragazzi, che oltre a essere la donna più stupida e pazza che io conosca, perché veramente... Guarda, su pazza posso essere d'accordo, su stupida secondo me è tanto personaggio, quindi se è un personaggio non è stupida, perché è tutto molto... Non lo so, però io ho visto sempre troppa gente che la difendeva, a me, cioè nel senso... Un personaggio proprio senza carisma, senza questo interesse. Questo non fa delle Sharon Stone, voglio dire, nel senso, infatti. Sapete, Sharon Stone ha un QI è altissimo, al testo del Mensa e c'ha numeri da scienziato nucleare. Perché è un genio. Ci vuole far test addirittura. Sì, perché. E queste sono battute che fanno veramente tanto ridere. Però è passata per la storia per far vedere la pregnant in qui pensa tu. E invece c'è l'intelligenza battuta Però ricordiamoci sempre di Antonella Elia. La cosa bellissima è che veniva bestemmiata regolarmente da Mike Buongiorno, soprattutto in quella fantastica occasione dove la signora ha vinto la pelliccia e lei ha detto che schifo la pelliccia. Brava, l'ha rifiuta. Ma cosa dici? Sei una cretina. È un momento di televisione meraviglioso che io non dimenticherò assolutamente mai. E potete trovare su YouTube, tra l'altro. Sì, perché ricordiamoci che Mike Buongiorno era devoto allo sponsor. Lo sponsor era quello che dava il pane, per cui andava rispettato oltre ogni. Non avrei altro dio di quello sponsor. Ci stavo, voglio dire. Cioè, lui guarda, allora, su quella cosa, mo di là uno può pensare sulle pellicce. Però lui su quella cosa disse una cosa giustissima. Cioè, nel senso che quella pelliccia gli pagava lo stipendio a lei. Cioè, non fa troppo la stronza, perché alla fine. Se tu magni, magni perché ci sta Annabella da Pavia. La ricottata, Madonna, raga. Annabella di Pavia, sì. E poi non ho mai capito se sto marchio facesse veramente pellicce di qualità o che, perché è sparito con Mike Buongiorno. Quindi loro ne parlavano come fosse la più grande confezione di pellicce d'Italia. Per carità, in quegli anni veramente c'era un'esposizione televisiva enorme. Non solo adesso, però, cioè, le pellicce non vanno più come una volta. Adesso no, è meno male. Oramai sono quasi sparite, penso. Sì, sì, cioè, ma anche giustamente, diciamoci la verità. Sì, no, sì, la cosa bella invece, per concludere un po', anche andando un po' nell'ambito sportivo, voi sapete che tutte le manifestazioni sportive, quelle più importanti, sono state rimandate praticamente di un anno, però non si capacitano. La UEFA in particolare e il campione, la Serie A, quindi la Lega di Serie A, non si capacitano del fatto che sti campionati devono finire, cioè non ci tocca. Ah, no, oggi l'ipotesi di oggi è che casomai li finiamo in autunno, così quello in autunno, quando lo fai, si dopo si splitta, dopo lo comprimono tutto, dopo fanno un macello. Guarda, per carità, secondo me ormai sarebbe, cioè, io non sono uno che vive di calcio, però secondo me oggi come oggi, al di là delle squadre che poi giustamente o meno, io non lo so, avrebbero da recriminare possibilità sfumate, è vero anche che però secondo me oggi come oggi l'unica cosa per non fare una farsa è chiudere, dire: signori, abbiamo scherzato, quest'anno lo scudetto non si assegna. Sì, esatto, secondo me sarebbe la cosa più giusta, se si assegnano i primi quattro posti per posizione, perché comunque quello è determinare i passaggi in coppa, certo, però non, cioè, assegni lo scudetto. Però non assegni lo scudetto, cioè sta, diciamo, l'unica cosa è che nell'ipotesi che a giugno si riprenda il campionato, perché qui comunque l'ipotesi tra virgolette più realistica che loro fanno come scenario, non dico come effettività, cioè come cosa che veramente può succedere, però come scenario, è il fatto che a giugno e a luglio si concluda il campionato. E se così dovesse essere, praticamente la Juventus è la squadra più indietro di tutti nella preparazione atletica, cioè, perché pare che praticamente tutte stanno ripartendo, anche se poi c'è stato un decreto. No, in realtà non sta partendo, non sta ripartendo ancora nessuno, perché non possono, cioè è vietato. Poi se i singoli giocatori si allenano per conto loro, credo che nessuno glielo vieti. Esatto, le società praticamente si sono organizzate praticamente per il training distribuito, chiamiamolo così, no? Per usare un termine digitale che piace tanto oggi. E quelli che sono più in difficoltà sono la Juventus, perché praticamente questi giocatori non ci stanno, cioè sono più tornati. In realtà la Juventus ha dato modo a molti suoi calciatori di tornare nelle nazioni di origine, cosa che mi sembra anche lì una grossa stronzata, però sì, vabbè. Dai, cioè, diciamo, la cosa non mi tange da un punto di vista sportivo. No, me ne frega niente, manca di me, perché tanto secondo me il campionato c'è andato, no? Cioè, nel senso, oramai è così, cioè, nel senso, la vedo difficile che riusciranno a recuperarlo. Se dovessero recuperarlo, faranno veramente la volemo se bene, secondo me si rischierà di fare una porcata ancora peggio di quello di non assegnare uno scudetto, una condizione d'emergenza, così come è successo altre volte nella storia. Perché sì, ma anche perché se tu oggi lo fai, diciamo, lo fai finire alla volemo se bene, come dici anche tu, comunque sia, su quattro squadre, tre, qualunque esse siano, qualunque siano le permutazioni, tre squadre recrimineranno fino alla nausea, perché sì, in qualche modo. E poi, diciamo, adesso il problema grosso dov'è? È nella gestione, diciamo, della perdita economica, perché al di là delle società c'è tutto, come dire, l'indotto. Chi glielo dice a quelli che hanno pagato Sky per un anno, che non hanno visto le partite? Tra l'altro, qualche giorno fa ho visto un'insurrezione popolare su alcuni forum, perché sostanzialmente Sky aveva rimodulato l'offerta di molti abbonati, togliendo, in realtà aveva fatto una cosa, una manovra abbastanza furba. Cosa aveva fatto? Molti abbonati di vecchissima data godevano da anni di uno sconto incondizionato sul prezzo dell'abbonamento totale, che Sky ha deciso di revocare proprio in questi giorni. Qual è la cosa particolare? Che essendo la revoca di uno sconto incondizionato precedente, non è un aumento, quindi non fa scattare la possibilità di, diciamo, di rescindere unilateralmente il contratto. Ovviamente, ma l'insurrezione popolare è stata significativa, perché tante persone hanno giustamente detto: scusate, ma proprio adesso che io ti pago un servizio che tu non mi stai dando, non solo non mi restituisci i soldi del campionato che non si sta giocando e che quindi io sto pagando per non poter vedere, ma in più mi chiedi anche altri soldi, cioè qualcosa che non torna. E la cosa è stata talmente come dire, questo tentativo di Sky è stato talmente maldestro che poi alla fine se lo sono dovuto rimangiare e hanno fatto marcia ma indietro. Ma che strano, fanno le cose maldestre. Veramente io non sono un sostenitore di Sky perché ho sempre detto che, come dire, se sei un patito di calcio ci può stare che il pacchetto che ti permetta di vedere le partite costi tanto, fermo restando che magari 9 persone su 10 si accontenterebbero di abbonarsi alla propria squadra e non a tutto il campionato, però al di là di quello che possa costare cifre significative ci può stare, ci sta molto meno secondo me quando vuoi pacchetti che non includono il calcio ma costano tantissimo perché vuoi o non vuoi implicitamente parte dei costi del calcio te toccano anche a te, e quindi io non sono mai stato forte sostenitore delle politiche di prezzo di Sky, ecco. E in questi momenti, come dire, credo che i fatti mi diano ragione. Poi, invece, per carità, pensa che c'è stata una cosa molto carina che ho ricevuto io. Proprio, è stato proprio un pensiero gentile. A me è piaciuto tantissimo. Mi sono quasi intenerito. Che praticamente DAZN mi ha regalato un mese d'accesso libero. questo sì. Vedi, a differenza di 5 account, quindi aspetta un attimo, fammi finire, poi dopo commentiamo la cosa, no? Perché cioè, nel senso, io lo capisco, cioè, è stato carino come gesto, no? Ma che cazzo, cioè, su DAZN c'è lo sport, che cazzo vado a vedere? Non c'è niente, è tutto fermo, cioè, che mi fai vedere le partite del basket dell'altro anno? Cioè, vabbè, nel senso, sì, per l'appassionato ci può anche sta, però anche sti cazzi. Ma questo mese gratis lo devi usare subito per forza? No, era attivo già, io me ne sono accorto quando è scaduto. Perché mi è arrivata la mail, allora ciao Simone, ti avvisiamo che il mese gratuito è terminato. Grazie. Ma cosa devo? Cioè, a posto. Se me lo dicevate prima, cioè, capito? Vabbè, dai, ragazzi. Cioè, io capisco, in questo momento è tutta una grande confusione. Tutti a tiriamo a campare. Ci sta anche, perché io non. Sì, perché dai, io non trovo giusto che poi alla fine si vadano a mettere in tasca le mani nelle tasche dell'ultimo anello della catena, che è il consumatore. Perché in questo caso il consumatore, più che in altre circostanze, ancora è quello che deve essere risarcito. Poi ti puoi lamentare quanto ti pare. La Lega da una parte, Sky dall'altra. Tutto quello che vi pare, è chiaro che in assenza di un servizio, di un prodotto, in questo caso il calcio, l'utente che ha pagato per il calcio dovrebbe essere rimborsato senza se e senza ma. Poi come ripartirti questi costi tra gli anelli superiori della catena non dovrebbe essere un problema. Io infatti è per questo che da Sky mi sono disdetto tantissimo tempo fa, e adesso quando mi serve faccio una OTV sì, alle condizioni che so e basta, cioè so che quando è più e disdico e via. Perché se no, in questa situazione tutti si stanno a mettere le mani in tasca. Se vai a vedere, oramai tutte le squadre hanno chiesto gentilmente, diciamo così, tra virgolette, ai giocatori di ridursi l'ingaggio in questa fase, e la stragrande maggioranza dei giocatori lo sta facendo. Cioè, questa è una cosa che bisogna anche riconoscere, no? Il fatto che loro riconoscono che comunque questa è una situazione, perché comunque a noi non sembra, ma a una società di calcio sta storia costa i milioni, insomma, no? Chiaramente, cioè, soprattutto nell'inattività, perché comunque il fatto che è tutto bloccato, poi alla fine sono solo soldi che escono, non entra niente. Ma poi nel caso dei calciatori e di sportivi di altissimo livello guadagni talmente tanto che tutto sommato è anche, come dire, doveroso fermarti un attimo e rinunciare a qualcosa, perché è chiaro che tu sei il prodotto che viene venduto ed è chiaro che senza di te un certo spettacolo non c'è, però nel momento in cui questo spettacolo viene messo, Serie A, però Serie A, Serie B, cioè dalla Serie C. No, vabbè, Serie A in Italia come altri sport, che ne so, l'NBA piuttosto che a seconda delle nazioni. Le serie minori già cominciano un po' a soffrire di più, insomma, cioè, non è che sono poveri, per carità di Dio. Diciamo che... Vabbè, però lì le condizioni del contratto da professionista è diverso, cioè nel senso, comunque stiamo a parlare già di stipendi normali, cioè quelli già rientrano nella cassa integrazione, per capirsi. Però comunque c'è un contratto minimo sindacale nel calcio professionista, che comunque, diciamo, non è che ti fa morire di fame, cioè nel senso, no, un calcio, però dipende dalla lega a cui stai, cioè, nel senso, per esempio in Serie A il contratto minimo mi pare che è di 400.000 euro l'anno, che cazzo, cioè se vai a vedere, no, nel senso, però magari in Serie B è di 100.000 euro l'anno, magari in Serie C è di 50.000 euro l'anno, è calla che stai, cioè io parlo dei contratti minimi, cioè quindi non poi di stipendi reali, perché poi magari chiaramente i giocatori ci sono, cioè io, se ci ricordiamo quando per esempio la Lazio era nella fase di fallimento, quando è subentrato Lotito, i giocatori prendevano tutti 400.000 euro l'anno. Cioè, cosa che la, cioè, nel senso che le altre squadre professionistiche di pari categoria non manco li guardavano. Infatti, chi cazzo ci voleva venire, no? Giustamente. E questo succede un po' a tutte le società quando sono in una fase di difficoltà, diciamo che quello è lo stipendio minimo sindacale da categoria, perché poi dipende. Beh, però comunque parliamo, fai conto, 10 volte lo stipendio annuo di un impiegato, forse anche più di 10 volte, no, anche più di 10 volte. Sì, sì, però ecco, magari, cioè quello che ti dicevo, che magari in Lega Pro, in Serie C, comunque magari il minimo sindacale è simile a un buono stipendio di un funzionario, diciamo così, poi, insomma, ecco, diciamo 50.000 euro l'anno, magari, per ditte, non lo so, lo prende un amministratore di un'azienda, una piccola azienda, non lo so, ma adesso non è che, però insomma questo è comunque, dai, poi ecco, bisognerà vedere un attimino come si potranno ripartire e recuperare questi soldi persi. È chiaro che la stagione non te la ridà nessuno, addirittura era la UEFA che voleva fare causa alle singole nazioni per non so quanti miliardi, no, però credo che questa cosa sia stata, come dire, superata dagli eventi, perché c'è stato un momento in cui l'UEFA ancora cercava di fare, come dire, la voce grossa, pensando insensato il blocco dei campionati, ma poi la situazione è diventata talmente tra l'altro, a proposito, ma di situazione, secondo me non si rendevano veramente conto, oppure lì c'erano talmente degli interessi economici che dicevano, raga, qui anche fino a che non ci stanno i morti noi andiamo avanti. Sì, ma penso più questa. In realtà leggevo proprio oggi che il Giappone, che è stato uno dei, diciamo, dei quelli che più strenuamente hanno cercato, come dire, di, passami il termine, minimizzare la situazione, stanno per chiedere, dichiarare anche loro stato d'emergenza, e lo stanno per fare con un numero di contagi, almeno dichiarato, molto molto più basso di quelli europei, sì, medi. Anche, ecco, lì poi è tutto da vedere, perché lì comunque sai che pure il Giappone c'ha storici, sì, un po' così, un certo goglio, mettiamola così, esatto, no? Sì, perché comunque vabbè, so che c'è stato un decreto d'emergenza sull'aiuto alle famiglie, poi in realtà non tutti sono informati di questa cosa, poi c'è la cosa delle due mascherine a famiglia, però la cosa importante per esempio sul rinvio delle Olimpiadi è che ok, ancora anche in Italia, qui da noi c'è sta un po' la polemica sul chi viene rimborsato da cosa per i biglietti, abbonamenti e roba del genere, mentre che invece paradossalmente quando furono stampati i biglietti dei Giochi Olimpici di Tokyo, sul biglietto c'è sta esplicitamente scritto che per eventuali invii per cause di forza maggiore non è previsto il rimborso. Pensate, quello lo sapevano, sapete, che avevano questa sensazione. Ma no, loro secondo me l'hanno fatto, dice, dato che da noi ogni tanto esplodono le centrali nucleari, ci stanno tsunami. Vabbè, tsunami esatto, insomma, per rinvio, questo significa che il tuo biglietto comunque mantiene validità alla nuova data. In teoria dovrebbe essere così. Infatti, su questo stanno studiando. Perché se no è approvazione indebita. Cioè, se il mio biglietto non è rimborsabile, vuol dire che se le Olimpiadi si tengono con un anno di ritardo per causa di forza maggiore, il mio biglietto per quel dato evento resta valido. E anche perché sennò che fanno, li vendono due volte, sarebbe una truffa non da poco, insomma. No, ma c'è stato lanciato un grido d'emergenza sulla chat, perché giustamente Girasolo ci fa sapere che Girasolo ci fa sapere che fra un po' non ci sarà più il tè, e questo per noi è un po' un problema, insomma, sta questione. Quindi Girasolo, raccogli tutto il tè che c'hai e spediscicelo. mettilo da parte. Oppure mettilo sì, qualche scatola da qualche parte nascosta con un lucchetto e noi se lo veniamo a prendere. Comunque, parlando di Giappone, ho scoperto che su Amazon Prime c'è l'anime Dororo, che sicuramente sarà tradotto in Dororo in italiano. Che è un anime tratto da un manga dal quale a sua volta è stato tratto un gioco di edizioni PlayStation 2 che si chiamava Blood Will Tell, che è un gioco mai sentito, era fighissimo, veramente ripercorreva tutta la storia di questo manga, quindi dall'inizio alla fine, diviso in capitoli, e ogni capitolo era un'avventura e questi dovevano fare molto molto bello. Il boss finale era, non sono mai riuscito a finirlo. Il boss finale era perché dovevo tornare indietro e recuperare una spada con un attacco speciale, una cosa molto giapponese. E, però era veramente veramente bello, mi era piaciuto perché c'era comunque una storia, era assurda. Vi dico l'incipit, leggendolo da Amazon: nel Giappone del periodo degli stati belligeranti, il signore Daigo Kagemitsu stringe un patto con 12 demoni, offrendo suo figlio non ancora nato in cambio della prosperità per le sue terre. Questo significa che questi 12 demoni prendono un pezzo del corpo del figlio non ancora nato, quindi le gambe, gli occhi, l'ho bello, fatto, il busto, glielo portano via, però il bambino sopravvive a tutto questo, cuore, polmoni, però sopravvive. E le parti mancanti, occhi, braccia, vengono sostituite dalle protesi da un artigiano che mi nasconde anche delle lame a posto dentro le braccia, e questo qui praticamente quando diventa grande va a ammazzare i demoni per recuperare i pezzi. Cioè è una cosa, però figo, veramente veramente bello. No, la domanda era che cosa era rimasto di usabile del, no, come si chiama? Allora il manga è Dororo, che poi è praticamente il bambino, non spoiler, il bambino che accompagna il protagonista, che si chiama Yakimaru, che è quello a cui è stato tolto i veri pezzi del corpo. E stavo guardando la descrizione su Amazon Prime Video, c'è un problema, però mi sta facendo la presentazione in tedesco e non so perché. Sì, è vero. Fusca Gabezzo bitte di Non lo so, c'è la sinossi in tedesco. Poi il riassunto, la sinossi dei singoli episodi in italiano, quella generale in tedesco, avranno sbagliato a pubblicarla, non ho idea. Vabbè, comunque sì, era giusto per curiosità, per capire. No, perché i sottotitoli sono in danese, in tedesco, appunto, spagnolo, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, c'è anche l'italiano, spero. Ah, c'è l'italiano. Sì. Lingue solo giapponese, però. Eh sì, lingua audio giapponese. Però adesso me lo sparo. Mi stavo vedendo anche l'Immortale, Blade of Immortal, ultimamente, che era una cosa che volevo vedere perché avevo cominciato a leggere il manga era bellissimo all'epoca. Ho cominciato a leggere sì il fumetto, il manga, poi non l'ho mai finito e adesso ho visto che c'era l'anime, ho cominciato a vedermelo. È bello, invece, bello pure. Invece io ho iniziato a vedere The New Pope con Michela e devo dire bello, che è David Lynch incontra Nanni Moretti con un po' di porno. Sì, diciamo che rispetto alla prima stagione ci sono alcune scene di sesso un po' gratuite, se devo dire. Però sì, Sorrentino sotto sotto ce l'ha queste derive ogni ma tanto. Sì, dai, alla fine tutto sommato è abbastanza dissacrante. Mi piace, devo dire, bello. Cioè, visto che mi era piaciuta molto la prima stagione, devo dire, questi 3 episodi della seconda che ho visto mi stanno piacendo, insomma. Ne parliamo alla fine perché sono curioso di sapere poi il giudizio complessivo sulle cose che succederanno. Ne parliamo, ecco, appena mi avrei detto che hai finito. Sì, io invece volevo possiamo solo dire che c'è chi è l'attore protagonista, insomma, della John Malkovich e anche Jude Law, sempre. Esatto, è John Malkovich che viene anche citato poi, tra l'altro. È bello, lei assomiglia a quell'attore che è il mio attore preferito, John Malkovich. La cosa bella di questa serie è che ci sono un sacco di apparizioni di, diciamo, di personaggi particolari nel ruolo di loro stessi. Non so se tu ci sei già arrivato, però sappi che ti imbatterai in dei camei di Sharon Stone nel ruolo di Sharon Stone e di Marilyn Manson nel ruolo di Marilyn Manson. Che viene, vabbè, perché lo cita poi lui all'inizio, no? Devo dire la verità che ci hanno speso più soldi rispetto alla prima stagione, si vede, insomma, nel senso, anche per i personaggi, cioè, nel senso, secondo me comunque come investimento è stato maggiore, ed è bello, devo dire, fino adesso mi piace, poi quando arriveremo alla fine, insomma, penso in 2 o 3 giorni lo finiremo sicuramente, perché sono 9 puntate in tutto, insomma. Sì, quindi. Sì, lascia abbastanza velocemente. Se mi permettete di utilizzare la chat, se c'è gente che è in grado di darmi una mano, ho visto anche su Amazon Prime, però ho condiviso prima, un film che si chiama Watch, in italiano L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot. Cioè, qualcuno me ne parli. Ah no, non ho capito qual è, ma mi ha incuriosito il titolo e credo che probabilmente abbia anche, diciamo, una sua valenza, perché non è la prima volta che mi appare questo titolo e credo che sia comunque un film, diciamo che non è uno dei trascioni che trovi su Amazon Prime Video, ecco, è un film che ha una sua valenza. Comunque. No, sto facendo così, informazioni di servizio per la chat. Invece io volevo dire una cosa, ragazzi, purtroppo con tristezza e con mestizia devo dire ho visto parte, lo finirò per un fatto di principio, come dire, quasi distorto, però ero tanto contento di aver beccato sempre su Amazon Prime Video quella che speravo essere una bella serie, che era anzi una miniserie perché in tutto 4 episodi, che si intitola Dopo Chernobyl, After Chernobyl, che è una serie russa che dalla sinossi doveva raccontare, insomma, la vita e le disavventure di alcune persone a cavallo dell'esplosione della centrale nucleare. Inizialmente pensavo che fosse la risposta russa. Ma tutta la vedi una persona a cavallo dell'esplosione nucleare? Come no? Cioè, come in Iron Sky, uguale. Yashan. Esatto. Fatto sta che credevo, sapete che quando è uscito Chernobyl di HBO, i russi avevano accusato di aver fatto una sorta di revisionismo storico, di aver raccontato fatti non veri, e quindi avevano annunciato una controserie. E credevo che After Chernobyl potesse essere quella. Questa cosa poi l'ho chiarita subito, che non fosse così, perché ho visto che l'anno di produzione è il 2016, però ho detto vabbè dai, una miniserie di 4 puntate 2016 magari non sarà tecnicamente ai livelli di Chernobyl di HBO, che è favolosa sotto tutti i punti di vista, però voglio dire, magari porterà un punto di vista russo su una storia di cui si sa tanto ma non tutto, vediamo, magari ne vale la pena, ma aspettavo comunque un dramma. E invece dopo pochi minuti, già dal tipo di fotografia, ho capito che praticamente è quasi una soap opera, il taglio, la regia e le storie sono proprio da soap opera, insomma, quindi molto molto deluso. Tra l'altro è una serie che non è doppiata, è soltanto sottotitolata, e i sottotitoli in certi momenti mi sembrano quasi quelli automatici di YouTube, non so se avete presente, perché certe frasi sono veramente, come dire, scritte in un italiano abbastanza stridulo, abbastanza scadente, quindi vabbè, quello è l'ultimo dei problemi, però così, ecco, sappiate che se volete vedere After Chernobyl vi imbatterete negli occhi del cuore. Occhi del cuore, beh vabbè, ma i russi... Gli occhi di Chernobyl, gli occhi di Chernobyl... Che Boris, bello, che bello. Stavolta Boris, cioè, secca davvero. Senti, ma io vedo, allora, nel nostro gruppo Telegram MDB The Original One, quindi cercate, aprite Telegram, dove c'è la lentina di ingrandimento, scrivete MDB The Original One e troverete il nostro gruppo, dove noi scriviamo e commentiamo sempre le cose un po' a cazzo di cane e ci divertiamo tanto fra di noi, diventiamo amici. A proposito di Boris, sì. Esatto, e c'è una foto di Salvini, avete messo la foto di Salvini in... cioè, che cos'è questa cosa? Allora, sono Salvini, allora non l'ho messa io, però penso di averla capita, sono Salvini, Berlusconi e la Meloni durante una pausa di uno di quei riti che si fanno durante le ostentazioni, durante il periodo della messa, della Pasqua, probabilmente si stavano ciliciando o qualcosa del genere, secondo me. Ma che è, sai, quando porti la Madonna sulle spalle e cose del genere? Ma è una foto vera oppure è un fotomontaggio? No, è chiaramente un fotomontaggio. Ah, ok, allora posso. Però credo che voglia ripercorrere questi fatti di queste processioni tribali di ostentazione di santi, altarini vari, ecco. Dai, manca solo un mese, dice, e noi gli vogliamo bene a Fiordalis, dai, a girasole perché vabbè, c'ha l'ottimismo dentro che se la porta via, insomma. Beh, oddio, dalla faccetta, sì, dai, manca solo un mese, ma la faccetta, cioè, come dire, un ghignetto abbastanza triste. Vabbè, vabbè, ragazzi, mese bene. Siete tutti giorni per voi, io, cioè, capite la fatica nostra. Mo lasciate per questo, mettetevi un po' nei nostri panni. Che dobbiamo fare le dirette tutti i giorni qua. Vabbè, io direi che se Marco Gualdi non c'è niente da aggiungere, possiamo andare verso la scivolata finale. Marco, allora, diciamo che in questo momento è tutto quanto calmo, le squadre stanno andando agli spogliatoi, diciamo, okay. Che sì, non è successo niente, okay. L'arbitro ha fatto finire prima la partita 0-0. così triste. Esatto. Okay. Ma per una cosa triste non è successo niente. Diciamo che si sono contentati del pareggio. Ok. Allora, fermo restando, io non so che cosa c'è domani, perché per la prima volta non sono informato su che cosa ci sta domani. Nella nostra scaletta di ufficiale non c'è niente, ma faremo in modo che qualcosa faremo ci in sia. Modo che ci sia qualcosa, esatto, perché insomma, se domani mattina non si occupano lo slot del pomeriggio o della sera, occuperemo in qualche modo lo slot del pomeriggio. Perché vi ricordo, e lo diciamo sempre sia all'inizio che alla fine, perché è importante ricordarlo, che il Runtime si è presa l'impegno di fare almeno una live al giorno, almeno una live al giorno, perché per esempio oggi ne abbiamo fatte due e altri giorni ci saranno altre più di una diretta, insomma. Questo lo facciamo per farvi compagnia, per farci compagnia, per stare insieme, è sempre insomma il solito discorso, è il nostro impegno, diciamo, ci siamo presi per aiutare insomma la gente a passare anche un'oretta e mezza in compagnia e divertirsi tutti quanti insieme. Vi ricordo però, e lo so che non è, può sembrare non bello in un periodo come questo, però come sono ovviamente crollate tutte le attività commerciali nel resto del mondo, chiaramente anche gli introiti pubblicitari di Spreaker sono praticamente al minimo storico, e quindi praticamente noi siamo praticamente quasi a secco insomma rispetto a quelle che sono le nostre abituali entrate. Quindi se vi va di contribuire o di partecipare, andate su www.runtimeradio.it e c'è ovviamente una scheda che si chiama Runtime Anch'io, dove vi riindirizza ovviamente al nostro Patreon, dove potete abbonarvi e decidere se darci dei soldi una tantum o dei soldi al mese, se volete. Ricordiamoci che stiamo parlando di coprire le spese, perché ovviamente esatto, ci sono dei costi, non vogliamo essere pagati per quello che facciamo, no, vogliamo semplicemente andarci in pari. Cerchiamo di non rimetterci troppi soldi. Se proprio Patreon comunque non vi piace perché lo trovate un po' barocco, io quanto mi piace quando dice che è barocco. È barocco. Se appunto Patreon non vi piace, insomma, perché è un po' arzigogolato, è un po' complicato, oppure perché volete fare magari una donazione o una tantum, basta andare su paypal.me/runtimeradio e lì ovviamente decidete se lasciare 1, 2, 5 euro, insomma quello che volete. L'unico suggerimento che vi do, insomma, se avete in cuore di fare una cosa del genere, non lasciate mai un euro. È meglio che non fare una donazione che fare una donazione di un euro. Io lo so che magari è brutto dirlo, però sono soldi sprecati, cioè nel senso, sì, per i meccanismi di a voi ve li levano, a noi non ci arrivano. Esatto insomma, quindi esatto. Non c'ha proprio senso. Se poi dici io però c'ho un euro, allora non lo fare, che non è un problema, tanto noi te vogliamo bene lo stesso e continueremo ugualmente a fare le nostre trasmissioni. Detto questo, io ringrazio e saluto dal Cibali Marco Gualdi. Buonasera, alla prossima. Alla prossima, mi raccomando, un po' di entusiasmo, Marco Gualdi. Io lo so che lei, insomma, però insomma la voglio più sorridente. Sorrida. Culo. Che ridi su sto cazzo. Esatto. E ringrazio e saluto ovviamente Walter Sbano. Buonanotte, alla prossima, ragazzi. E ci sentiamo domani e prossimamente entro sabato sicuramente anche con OGM. Ciao a tutti. Ciao.